Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Buongiorno e benvenuti, siamo arrivati a marzo finalmente. Intanto buon lunedì. Prima di andare ai titoli del nostro sommario, ringrazio in regia la parte tecnica Peter Bescapè, come sempre Laura Vanossi in redazione. Siamo pronti, partiamo. Lingua, mucose e gengive. Oltre ai denti c'è di più. Il compagno di letto deve essere comodo e confortevole. Guida alla scelta del cuscino ideale. Il cuore delle donne, un patrimonio da proteggere. Bene, oggi devo chiedervi di aprire la bocca, di tirare fuori la lingua, perché parleremo di lei, quindi impareremo a osservarla con occhio clinico, riprendendo un po' la buona abitudine dei medici di una volta. Ve lo ricordate che proprio facendoci tirare fuori la lingua, osservandola, riuscivano a recuperare informazioni molto utili e importanti, sintomi di salute e di malattia. Oggi ci occuperemo della lingua come cartina tornasole del nostro benessere, ma ci allargheremo. Infatti parleremo delle gengive e delle mucose che rivestono le pareti della nostra bocca, e di saliva. Parleremo anche di lei, di questo liquido organico lubrificante, disinfettante e indispensabile, un po' come le lacrime, al benessere del cavo orale. Vi consiglio quindi di chiamare subito il nostro numero verde 800 24 0024 oppure di mandarci un messaggio al 349 238 6666. In linea con noi la dottoressa Adele Fantoni è tornata a trovarci, specialista in odontoiatria e ortodonzia infantile presso l'azienda ospedaliera Istituti Clinici di Perfezionamento a Milano. Dottoressa Fantoni, benvenuta e bentornata. Buongiorno, grazie. Qua in studio ho un ospite, il professor Silvio Abati, è associato di malattie odontostomatologiche all'Università di Milano e direttore dell'unità di Day Hospital e diagnosi orale della clinica odontoiatrica dell'ospedale San Paolo di Milano. Professore, buongiorno. Buongiorno a tutti, buongiorno anche all'amica Adele che è con noi oggi. E ci darà buongiorno professore. Ci darà una mano, vi dividerete i compiti. Allora, andiamo subito davanti allo specchio. Lei, dottoressa Fantoni, ci aiuti a osservare le nostre gengive, ci guidi passo passo, come si dice. Iniziamo allora dal colore, sì, e dall'aspetto. E poche idee ma chiare. Deve essere roseo, con aspetto cosiddetto a buccia d'arancia. Le gengive devono essere piane, quindi senza rigonfiamenti, e questo può essere un primo passo per vedere se tutto va bene. Ma se non va bene, cedo. Ecco, se non va bene ne parleremo nel corso della trasmissione. Adesso guardiamole solo. Dottoressa Fantoni, segnaliamo anche qualche piccolo problema che possono darci le nostre gengive, ad esempio il sanguinamento. Che è quello che spaventa di più i pazienti. Credo che la frequenza sia di questo segnale sia indicativa, cioè se sanguinano con lo spazzolamento, se sanguinano solo quando usiamo il filo interdentale. Dottoressa Fantoni, diamo qualche... anche a un semplice sfioramento. Diciamo che il più delle volte, per fortuna, corrisponde a un'infiammazione non più controllabile, quindi che necessita di una visita odontoiatrica, di una banalissima igiene che magari sia un po' posticipata, e soprattutto del consiglio e del conforto di un igienista o di uno specialista, di un odontoiatra che sappia spiegarci i motivi e dare indicazioni per il mantenimento non solo degli igiene e della salute della bocca, ma di tutto l'organismo. Non dimentichiamo che la salute parte dalla bocca. Professore, con lei invece ispezioniamo le mucose, questa tappezzeria che riveste la nostra bocca. Colore, aspetto, presenza di qualcosa che non torna, piccole protuberanze, cosa dobbiamo guardare? Le mucose orali sane sono praticamente potremmo dire la pelle che riveste l'interno del cavo orale. E le mucose sane sono rose, senza macchie bianche o rosse, sono di consistenza, quella che sentiamo passando la lingua all'interno delle guance, sentiamo una consistenza morbida, perché le mucose sono molto lasse, consentono tutti i movimenti, l'enorme quantità di movimenti che fa la nostra bocca per mangiare, per parlare, tranne la mucosa che riveste il palato duro, che è più consistente. Tutti qua che con la lingua, sì, proviamo a sentire. C'era stata infatti una 20 trentina di anni fa una campagna interessante di autodiagnosi, una campagna pubblica per la prevenzione dei tumori orali, che proprio ci faceva vedere passarci con la lingua. Proviamo allora a farlo anche noi. Poi non dobbiamo sentire zone ruvide, per esempio, che possono essere un sintomo, zone ovviamente in cui c'è bruciore, e dobbiamo avere una normale qualità dei movimenti, sia delle mucose che rivestono le guance, l'interno delle labbra, ossia della lingua, ovviamente. La sentiamo umida perché c'è la saliva. Perché c'è la saliva, la dobbiamo sentire umida. La saliva è una delle secrezioni del nostro corpo più importanti, ci consente di lubrificare le mucose orali e di facilitarne i movimenti, consente quella che si chiama l'autodetersione, cioè l'allontanamento con i movimenti orali dei microbi della placca batterica, che ora si chiama biofilm orale, che continuano a proliferare sui nostri denti, sulle gengive, sulle mucose anche. Senza saliva non c'è più una corretta autodetersione, si accumulano i microbi, e contiene la saliva una serie di sostanze attive contro i microbi, contiene anticorpi generici, le sostanze antivirali e antibatteriche, e anticorpi specifici, le cosiddette IgA salivari. Parleremo naturalmente anche di saliva, voi restate con noi. Se soffrite di afte, se le vostre gengive sanguinano, si ritraggono, se avete notato delle piccole protuberanze o lesioni che non guariscono, oppure recidivano spesso, striature, macchie, teneteci, come si dice, aggiornati. Il nostro numero verde è a vostra disposizione, così come i nostri ospiti, all'800 24 0024. Messaggi 349-238-6666. Una mela al giorno. Con lui ci addormentiamo e passiamo la notte, ogni notte. Ma non sempre al risveglio ci alziamo soddisfatti. Non stiamo parlando del nostro compagno, almeno per questa volta, ma del cuscino. Lo tiriamo spesso in ballo per lamentarcene. Sicuramente qualche dubbio su di lui ce lo abbiamo, abbiamo avuto tutti. Sarà quello giusto per me, ad esempio. In linea con noi il professor Palombini, reumatologo e docente in fisioterapia all'Università La Sapienza di Roma, Ospedale Sant'Andrea. Professor Palombini, buongiorno e bentornato. Buongiorno a tutti. Professore, la scelta del cuscino è personale o invece ci sono delle regole, delle indicazioni che possono aiutarci a trovare quello giusto per noi? Diciamo l'uno e l'altro, nel senso che il cuscino è sicuramente personale, perché non tutti siamo uguali, chiaramente nessuno è uguale all'altro, quindi avremo delle spalle più grandi, più piccole, dei colli più grossi, delle teste che sono sporgenti in avanti, che sono più il collo più verticalizzato, quindi una situazione, diciamo, strutturale, corporea, diversa da persona a persona, quindi bisogna fare un adattamento. Certo che ci sono un pochino delle regole fondamentali per dormire bene. Io credo che la regola più importante da considerare è che per dormire tranquilli bisogna, questo va detto, il mento deve essere sempre leggermente rivolto verso lo sterno, mai il mento rivolto verso il soffitto. Questo eccita il sistema nervoso, cambia proprio la respirazione e può creare dei problemi di insonnia più spesso piuttosto seri, piuttosto antipatici. Quindi noi appoggiamo la testa sul cuscino e dobbiamo vedere se il mento va verso lo sterno. Allora, la posizione migliore per l'addormentamento, io lo consiglio a tutti i nostri amici, è quello di mettersi sul fianco, di solito sul fianco destro, in modo, come si dice, a non affaticare la circolazione, la grande circolazione più a sinistra, quindi mettersi sul fianco destro con le gambe flesse, soprattutto la gamba sinistra flessa e la gamba destra allungata. Questa è la posizione ideale per dormire, non è un caso che molti trattamenti terapeutici iniziano proprio in questa posizione, proprio per rilassare il corpo, perlomeno indurre l'addormentamento. In questa posizione il cuscino è importantissimo, perché se la testa è troppo reclinata verso il basso, noi creiamo tutta una situazione anatomica che può creare delle contratture muscolari sui muscoli del collo, sul trapezio. Quindi bisogna fare in modo che la testa non vada troppo verso il basso

fatto una specie di pinsimonio. Niente, quando è l'ora se ne vanno da sole, ma che dolore. Professor Abbati, vogliamo... Simonio non divertentissimo, no, per le afte. Professor Abbati, noi le diciamo tutto quello che viene in bocca di lesione, di doloroso, lo diciamo è un'afta, è giusto? O ci sono dei distinguo da fare? No, ci perché sono vorrei... tante ecco, distinguo, io vorrei tanti, che lei tanti, ci aiutasse a riconoscerle, perché scambiare una lesione con un'altra, non dar peso ad una lesione, può costare caro. Può essere anche pericoloso, ecco, certo. Allora, innanzi, le afte sono... Afte è una parola greca che vuol dire... che si riferiva alle ulcere, no? Mm. In generale, in sé è una definizione generica. Non tutte le ulcere, cioè i buchi che sì, si formano nelle mucose orali, sono afte. Le afte, come le consideriamo tutti quanti, sono le lesioni di una malattia che si chiama stomatite aftosa ricorrente. Sì. Che è una delle più frequenti malattie delle mucose orali, è tipica dei giovani, dei giovani, dei bambini, degli adolescenti e dei giovani adulti, e le sue caratteristiche sono che vengono con ricorrenza non costante delle ulcerazioni rotonde o ovali, al massimo due o tre, piuttosto piccole, mezzo centimetro, un centimetro, che hanno un alone arrossato e la parte ulcerata è ricoperta da una specie di membrana grigio-giallastra. Sì. Sono molto molto dolenti, fanno molto male, specialmente quando ci si alimenta con cibi acidi o salati. Sì. E tendono a guarire spontaneamente in un tempo di circa 5-10 giorni, massimo 5-7 giorni. Queste sono le afte. Sì. Possono venire altre lesioni simili, che però sono lesioni di malattie anche più serie. Adesso ce ne sono, se ne conoscono diverse. Penso che sia inutile che facciamo dei non nomi difficili. No, assolutamente. Le malattie di Becela, sindrome PFPA, ci sono tante sono cose specialistiche. Che usate tra di voi. Che cosa bisogna fare quando si ha un'afta? Bravo, questo. Ecco, innanzitutto bisognerebbe... La causa precisa delle afte non è ancora nota. Sì. Ci sono molte ipotesi. Si sa il meccanismo, cioè la fisiopatologia, il meccanismo con cui vengono, è una specie di lesione iperimmunitaria, cioè alcune cellule del sistema immunitario, che sono poi dei linfociti che stanno sotto la mucosa, distruggono la propria mucosa. E questo ci dice che non sono provocate da microbi, non sono provocate da virus, in senso stretto non sono contagiose. Che cosa bisogna fare? Quando si ha un'afta bisogna usare uno sciacquo o un gel antibatterico per evitare che i microbi della bocca infettino la lesione. Bisogna proteggerla, esistono una serie di gel protettivi e cercare di non morsicarsi. Cercare di non morsicarsi, perché la lingua batte dove il dente duole, ma anche dove l'afta urla. Andiamo a Carla, che ci chiama da Udine. Buongiorno Carla. Buongiorno. Benvenuta. Buongiorno. Pronto? Sì, siamo qua Carla. Sì, bene. Allora, io ho un problema di saliva. Sì. E dunque ho fatto degli impianti, 3 impianti ai denti e un innesto di osseo. E volevo sapere, può essere legato alla mancanza di salivazione, soprattutto al mattino, a questo tipo di cose che mi sono state fatte? Grazie Carla. Professor Abbati, abbiamo una risposta sintetica prima dei mercati a Carla? Solitamente no. La secchezza della bocca la mattina quando ci si sveglia solitamente è dovuta al fatto che si respira con la bocca aperta, perché magari c'è un'ostruzione nasale. Certo, non è pulito. Oppure a farmaci che si prendono alla sera. Quindi prima. Non è un problema dovuto agli impianti, non al lavoro che ha fatto Carla. siamo qui che ci guardiamo la bocca, abbiamo tirato fuori la lingua, poi abbiamo richiuso la bocca e con la lingua ci stiamo passando un po' come una sorta di autotest le mucose. Devono essere lisce, non devono apparire delle macchie, devono essere belle rosate. Non sempre succede così. Abbiamo parlato insieme ai nostri ospiti di afte. Dottoressa Fantoni, vorrei aprire una parentesi sul mughetto dei bambini. È un'infezione provocata da un fungo, giusto? La candida? Giusto. Il germe è un fungo, ma diciamo che sono le condizioni generali a favorirne l'attecchimento e la conseguente aggressione delle mucose, soprattutto della lingua. Il bambino, va ricordato, un sistema immune sempre non maturo. Sì. Deve assumere talvolta antibiotici per problemi legati a malattie respiratorie o gastroenteriche e di conseguenza questa debilitazione favorisce, come del resto tutte le infezioni, una maggior aggressività di questi funghi. Diciamo che i bambini, queste macchie, queste chiazze biancastre si distinguono, quindi sono da attribuire alla candida, al fungo, perché si staccano dalle mucose, sì, lasciandole sotto erose, come spelate, diciamo così, e arrossate. La cosa che preoccupa le mamme è che questo tipo di affezione disturba l'alimentazione, quindi le mamme si preoccupano perché il bambino non mangia. Cosa si deve fare, dottoressa Fantoni? Intanto bisogna sempre consultare il pediatra, in questo caso tenere condizioni assolutamente igieniche della bocca, spazzolare delicatamente con lo spazzolino, questo regolarmente, non solo i denti ma anche la lingua, ecco perché vanno dati questi tipi di consiglio, e eventualmente ricorrere a terapie di supporto, sempre dopo aver consultato il pediatra, che favoriscano una ripresa delle difese immunitarie. A proposito di consigli e di preoccupazione delle mamme, professor Abbatti, il pediatra di mia figlia, quando le vengono le afte, me le fa toccare con una garza con del gel antibatterico fino a farle uscire il sangue. È corretto tutto questo? Mi sembra dolorosissimo. Povero bambino. Usare un gel antibatterico va bene, magari non grattare via questa membranina di fibrina che c'è sopra fino a farle sanguinare. Quindi no, questo dolore è assolutamente inutile, bisogna disinfettare. È meglio usare, ci sono dei gel protettivi che consentono di mangiare meglio. Bene, andiamo a Roma, ci chiama Esther all'824-0024. Esther, buongiorno. Sì, buongiorno a lei. Esther, dove ci porta? Qua stiamo viaggiando tra gengive, lingua. Sì, io ho un problema sulla lingua. Praticamente da 5 mesi mi è uscito, a seguito del fumo di una pipa, diciamo, non avevo fumato mai una pipa. Cosa le è venuto in mente, Esther? A un certo punto mi sono sentita come un formicolio e mi è uscito questo arrossamento forte lateralmente alla lingua, come una cistina in fondo. E praticamente ho fatto anche la biopsia, perché mi dà molto fastidio questa cosa, e dalla biopsia è risultato che è una infezione virale, non è né un herpes né il lichen. Sì. Io ho già avuto il lichen, per cui l'otorino mi ha fatto l'altro giorno un'iniezione di cortisone dentro la lingua, dolorosissima tra l'altro. Però ecco, non ancora. Però niente, la situazione niente. Non migliora. No, professor Abbatti, io mi rendo conto che pensare alla lingua di Esther qua da Radio 24 in via Monterosa, ma un'indicazione per venire a capo. L'indicazione di rivolgersi a un esperto di medicina e patologia orale, ci sono anche a Roma, che saprà affrontare nel modo corretto e anche provare a verificare che in quella sede non ci sia un trauma continuo, i denti non interferiscano con la parete della lingua, magari con qualche cuspide appuntita, nel qual caso il dentista può arrotondarla e levigarla. Roberto ci chiama invece dalla provincia di Venezia. Roberto, buongiorno. Sì. E benvenuto. Buongiorno, grazie di avermi accettato in trasmissione e un saluto a tutti gli ospiti. Io quello che volevo far presente è questo: io ho praticamente delle afte ricorrenti che purtroppo non se ne sa la causa, certa, anche se in maniera empirica, diciamo, io ho diagnosticato nel fatto di assumere lattosio, quindi a contatto con latte, formaggi e così via. Sì. Diciamo che è praticamente quasi in tempo reale che mi arrivano, e non guariscono però in 10 giorni, come sentivo prima in trasmissione, ma non guariscono se non vado a fare delle toccature di cortisone, temporale e così via. E assieme a questo ho anche, mi vengono fuori, non sempre, però dei tagli sulla lingua, nella parte superiore della lingua, e questo onestamente tutti dicono sono afte, ma San Roberto, da quello che dite voi no. Eh certo, allora ecco. Sentiamo cosa dice il professor Abbati. Signor Roberto, innanzitutto è possibile che lesioni simili alle afte siano anche provocate da allergie alimentari, come per esempio al lattosio, è stato anche descritto, però è un po' difficile che sia un'insorgenza immediata. Comunque per questo è opportuno fare una serie di accertamenti allergologici. Anche la celiachia viene considerata una possibile causa di afte ricorrenti. Diciamo, ci possono essere associate alla celiachia a altri disturbi infiammatori intestinali cronici, ci possono essere lesioni orali che assomigliano alle afte. E per quanto invece riguarda la lingua del signor Roberto che si taglia? Questa cosa, allora, la lingua, molte persone hanno la lingua fissurata, sì, che è una caratteristica, individuale, che magari non si manifesta fino a un certo punto. Se si fissura in un modo importante, può darsi che dipenda anche da una riduzione del flusso di saliva, che si asciuga la mucosa, sì, e compaiono le fissurazioni. Solitamente è una caratteristica però ereditata. Il fatto che sia che in questo paziente ci siano insieme delle lesioni e le fissurazioni magari mi ricorda un po' una cosa che si chiama lingua geografica, sì, o glossite migrante, che ha proprio queste caratteristiche associate. Qual è la... L'igiene è fondamentale. Bisogna usare anche lo spazzolino per la lingua. È buona cosa avere un'igiene anche per la patina, e qui rispondiamo magari a molti quesiti. Bravo, perché io ho patine di tutti i colori, giallina, bianca, sì, metà gialla e metà bianca, più scura. Che cos'è la patina della lingua? La patina della lingua è un accumulo formato da microbi, cellule di sfaldamento e proteine varie, insomma, salivari, alimentari. Sì, un po' uno sporchetto. Uno sporchetto. In molte persone ce n'è di più, in molte ce n'è di meno. È un po' una cosa che dipende dalla forma della lingua, della bocca, da quanta saliva c'è, eccetera. È utile anche per prevenire l'alito cattivo spazzolare la lingua delicatamente con uno spazzolino morbido, magari di forma apposita, dopo aver lavato i denti con un pochino di acqua, andare da dietro in avanti un 10-15 volte delicatamente, senza grattare troppo, senza grattare via la patina. In qualche giorno la patina si riduce. Io vorrei parlare di gengive. Le gengive ci danno molti problemi, a volte anche masticando solo un cibo un po' più duro. Alcuni ascoltatori mi scrivono mi sanguina la gengiva. Dottoressa Fantoni, prima di parlare di gengive andiamo a sentire la domanda di Francesco da Brescia. Buongiorno Francesco. Sì, buongiorno a tutti voi. Volevo chiedere essenzialmente questo. Da un paio di mesi circa soffro di una gengivite non indifferente, con dolori fortissimi durante la masticazione. Mi è stato riferito che era essenzialmente dovuta del tartaro. Sì. Dopo essere sottoposto ad una detartrasi normalissima, il dolore comunque persiste, come se avessi delle carie in bocca, tant'è che mi hanno dovuto sottoporre a delle lastrine per vedere effettivamente se ci fosse qualche carie, qualcosa del genere. Non è risultato praticamente nulla. Io vado avanti con questa detartrasi ogni 15 giorni, però il dolore mi rimane. Faccio solamente gli sciacqui con del Listerine, niente di più, però il dolore rimane, non so più cosa fare. Mi rivolgo ormai da 3-4 odontoiatri diversi, non sanno più cosa dirmi. Francesco, allora sentiamo se i nostri due esperti riescono a darle l'imbeccata giusta. Dottoressa Fantoni, volevamo parlare come di gengive, Francesco proprio ci propone il suo problema di questa gengivite che sembra non trovare una soluzione. Refrattaria. Ecco, come ha già accennato il professor Abbati, efficacia non vuol dire violenza. Ricordiamo anche che molto spesso recessioni gengivali e abrasioni del colletto che provocano poi, quando il dente è scoperto, laddove non c'è più lo smalto, un'ipersensibilità, sono dovute a un autotraumatismo, cioè a una eccessiva forza che si traduce in trauma, perché setole per esempio dure o fili usati, fili interdentali impropriamente che tagliano, finiscono col creare per circolo vizioso, magari come raccontava l'ascoltatore, e anche per una sorta di angoscia che prende, un meccanismo appunto per cui l'infiammazione non può più regredire perché continua a essere perpetrato questo traumatismo che non lascia il tempo alla gengiva di guarire, certo disinfiammata, di riprendersi, di ricostituirsi. Quindi sempre un bilancio. Io sospetto anche che non siano state impartite, chiacchierando un pochino di più col paziente, tutte le regole, cercando anche di capire la sua psicologia. Talvolta, ripeto, l'ansia è una cattiva consigliera perché si fa troppo anziché troppo poco. Quindi lei rivaluterebbe soprattutto anche il momento della detersione del lavaggio, che non sia troppo aggressiva. Ad opera nostra, dico nostra, operatori del cavo orale, perché il paziente va guidato, come in tutte le pratiche, diciamo, domiciliari, sia di igiene che poi di monitoraggio delle proprie condizioni di salute. Siamo tornati insieme. Professor Abati, eccoci. Le gengive, noi stiamo dicendo che la nostra bocca, la lingua, ma anche l'aspetto delle nostre mucose è un po', possono essere considerati come degli specchi della nostra salute, ma in modo particolare le gengive, perché le relazioni sono molto strette con la salute generale del nostro certo. organismo. Gli studi ormai lo dimostrano, meglio conoscerli perché così ne abbiamo più cura della nostra bocca, perché non si chiude tutto lì. Ma... No, non si chiude tutto lì. Una serie di studi negli ultimi 10 anni hanno dimostrato come i microbi cattivi delle gengive, i microbi parodontopatogeni, possono avere azioni a distanza e aumentare il rischio sia per malattie cardiovascolari sia per esempio esiti avversi della gravidanza, parto prematuro, nascita pretermine. E a proposito di questo, questi sono studi non ancora definitivi, però in effetti è possibile prevenire sia le malattie cardiovascolari che gli esiti avversi della gravidanza migliorando il livello di igiene orale e avendo cura di evitare che si sviluppino questi microbi nelle gengive. Paolo ci chiama dalla provincia di Roma. Paolo, buongiorno e benvenuto. Buongiorno, buongiorno a tutti. Buongiorno. La mia domanda era questa. Dunque, pur avendo una dentatura pressoché perfetta, questo stando a ciò che ha detto il mio dentista, c'ho una idosi. La idosi continua. Ho fatto tante indagini, tanti esami, non risulta niente. Calcoli che la mia alimentazione è sicuramente buona. Sì, non è che si mangia bagna cauda tutte le sere. No, per carità, per carità. Poi a Roma è un po' lontana. Da Torino, sì, è vero. Niente, il problema è questo, anche perché non ho mai trovato uno specialista che mi abbia consigliato in modo idoneo. Io lo specialista ce l'ho, Paolo, c'ho anche questo, sempre il professor Abati, che della litosi è veramente un grande studioso. C'è una società che ha formato, sì, c'è una società scientifica sia internazionale che una società italiana, la società italiana per l'AIRA, Associazione Italiana di Ricerca della Litosi. Il presidente è l'amico Andrea Pilloni di Roma. Quindi ecco, io sarei il vicepresidente. E lei è il vicepresidente. Quindi un'indicazione al nostro un'indicazione Paolo. Che come sempre è un po' difficile via radio fare una diagnosi. Un'indicazione è che nel 90% dei casi l'alito cattivo viene da problemi di microbi della bocca, che non necessariamente sono quelli sui denti o sulle gengive, ma sono per esempio quelli in fondo alla lingua. Sì. Bisogna promuovere una igiene orale ottimale, occupandosi anche della lingua, per esempio usando spazzolando la lingua, come abbiamo detto, usando gargarismi antibatterici e verificare che cosa succede, verificare che passi aria bene dal naso, che non ci siano problemi nelle fosse nasali e poi vedere in che condizioni si guarisce. Si ritorna ad avere un alito fresco? Si ritorna ad avere un alito fresco a tutte le età. È importante, per esempio, poter fare una diagnosi con strumenti un po' particolari, perché sennò il paziente magari non riesce ad accorgersi che è guarito, perché noi non riusciamo a sentire il nostro alito, perché però i recettori si adattano. Però lo sentono gli altri. Si chiamerebbe paradosso di Rosenberg questo. Paradosso di Rosenberg. Che è un grande scienziato che studia queste cose. Abbiamo un ascoltatore che ci chiama da Ferrara, è Bruno. Buongiorno Bruno. Buongiorno a lei, Nicoletta. Tutto bene Bruno? Sì, abbastanza. Bene. Non c'è male. L'ascolto tutti i giorni, oggi c'è un argomento che mi interessava, quindi l'ho chiamato. Ha fatto bene, vede che bella occasione per sentirci. Allora Bruno, ci racconti. Ah niente, sono circa 2-3 mesi che io di notte mi devo portare su un bicchiere d'acqua, addirittura mi sveglio di notte con la lingua che si attacca, non so, al palato, proprio faccio fatica a respirare, mi devo bere sto bicchiere d'acqua tutte le notti perché da 3 mesi a sta parte mi trovo in questa situazione. Quindi non so, non era mai successo precedentemente. Non ha cambiato un po' la sua alimentazione serale? No, assolutamente. Ma qua perché io voglio fare un po' il balanzone, ma passo subito la parola alla dottoressa Fantoni. Dottoressa Fantoni, questa bocca che diventa asciutta di notte. Allora, come ha già detto il professor Abate, al quale poi cederei, perché è molto più esperto di me la parola, ma io anticipo, potrebbero essere dei problemi respiratori, insorti anche perché non è detto che una persona in età, per così dire, non infantile, non possa improvvisamente avere dei problemi anche allergici e quindi avere secchezza del naso, ma bisogna anche verificare con un'anamnesi, con la raccolta anamnestica del paziente, se il paziente per caso non è un po' di tempo che assume farmaci per vari motivi, perché ha l'ipertensione, io adesso qui accenno un'ipotesi, che tra gli effetti collaterali, oggi noi siamo molto medicalizzati, viviamo meglio perché prendiamo tante medicine, però alcune di queste possono anche ridurre il flusso salivare, questa come una delle possibili cause, oppure cambiato il sistema di riscaldamento, cioè guardare oltre al paziente, ambiente, ma anche la sua storia, non solo orale. Grazie dottoressa Fantoni, io penso che Bruno abbia potuto ricevere delle indicazioni, vero? L'Adele è espertissima, ha detto ormai le cose che io avrei detto anch'io. Benissimo, allora io saluto la dottoressa Fantoni, il professor Abati rimane con noi, grazie dottoressa Fantoni, ciao, ci sentiamo. Saluto al professor Abati e grazie Nicoletta, grazie agli ascoltatori. Allora il professor Abati resta con noi perché prima di chiudere diamo spazio ad un altro argomento, questa è una settimana che ci conduce verso una data importante, l'8 marzo, la festa della donna. Allora, oggi vogliamo provare, da oggi, giorno per giorno, a fare un consiglio alle signore, alle nostre amiche ascoltatrici. La mia idea, insomma, è quella di affrontare insieme a loro un problema di cuore, però non parleremo proprio di affetti, perché in linea con noi non abbiamo il dottor Stranamore, ma è tornato a trovarci il dottor Carlo Gargiulo, medico di famiglia e consulente medico della trasmissione Elisir. Dottor Gargiulo, buongiorno. Buongiorno Nicoletta, buongiorno agli ascoltatori. Allora, parliamo del cuore delle donne, dottor Gargiulo. Sì, effettivamente il cuore delle donne, al di là della facile allusione ai sentimenti, ha dei problemi abbastanza importanti, nel senso che la donna tende ad essere protetta fin tanto che esiste una protezione ormonale durante l'età fertile. Nel momento in cui poi questa protezione, questo ombrello ormonale tende a cadere, ecco che improvvisamente la donna si trova più esposta, perché ha effettivamente un cuore che per sua natura è un po' più debole di quello dell'uomo. Questo purtroppo non è molto sentito dalle donne, non è molto curato da questo punto di vista, perché le donne, che in fondo sono un po' le depositarie di quella che è la salute di tutta la famiglia, si preoccupano del marito, dei figli, dei genitori, ma non si preoccupano quasi mai di loro stesse, soprattutto per quello che riguarda il cuore. Ecco che da questo punto di vista c'è stata anche una recente ricerca che ha dimostrato effettivamente come sia molto più attenta una donna ai tumori al seno, ad esempio, rispetto alle patologie cardiovascolari. Eppure le patologie cardiovascolari dopo la menopausa rappresentano quasi 3 volte la causa di morte rispetto a un tumore al seno. Dottor Gargiulo, tutta questa settimana quindi consigli di cuore mirati per noi donne. Vogliamo allora identificare, tratteggiare un profilo di donna un po' più a rischio per problemi di cuore? Ne parleremo poi. Direi che possiamo fare già un profilo. Allora, intanto prendiamo una fascia di età che è sopra i 40 anni, anche se la menopausa non è ancora arrivata, però questa fascia d'età è quella che piano piano conduce alla menopausa, quindi è un momento in cui si può fare molto da un punto di vista preventivo. Quindi sopra i 40 anni? Sì. Sopra 40 anni, generalmente un po' in sovrappeso, quindi quando cominciamo a vedere quella pancetta che si forma, perché quello è il grasso che ci preoccupa, sì. Non il grasso estetico della donna, quello che fa i fianchi morbidi, quello che io chiamo la morbidezza in una donna, quello che ci preoccupa è la pancetta. Quel dottor Gargiulo, noi siamo in chiusura, l'identikit ha ancora un'altra variabile, sopra i 40 anni, in sovrappeso? L'identikit ha ancora una variabile che faccia una vita sedentaria o che peggio ancora sia una fumatrice. Allora, se vi riconoscete in questo profilo, scriveteci, perché il dottor Gargiulo per tutta questa settimana risponderà alle vostre mail, le leggeremo in diretta. Dottor Gargiulo, noi ci sentiamo domani, grazie. Professor Abbati, è stato un piacere. Grazie. Scappo a tutti perché voi. Sono in ritardo, appuntamento a domani dopo il GR delle 11.